Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buon pomeriggio a tutti da Gegè Telesforo, siete in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, appuntamento numero 173 di questa domenica, come sempre divisa in due parti, sì, perché poi torneremo alle 19:15 per il momento più vicino alle sonorità dedicate al jazz. Bene, io vorrei subito ringraziare il nostro amico Riccardo Bomarzi che oggi ci dà una mano come responsabile della parte tecnica. Oggi lasci le tue attività di ingegnere del suono per darmi una mano qui a Radio 24. Ciao a tutti, buongiorno. Ecco, buongiorno a te Riccardo. Bene, oggi parliamo di musica, come sempre ci sono alcune novità che vorrei presentare e quindi dare il via a questa domenica ascoltando il talento di questa giovane cantante americana che si è formata a Los Angeles e che abbiamo scoperto andando in giro per i profili artistici che abbiamo scovato su questo portale del quale abbiamo parlato insieme a Francesco Tromba la settimana scorsa, ovvero Bandcamp. E sì, perché su Bandcamp in questo momento vengono fuori le novità sulle quali non puntano le multinazionali o le case discografiche indipendenti, quindi un portale che dà la possibilità, come abbiamo già spiegato in altri appuntamenti del nostro Soundcheck, ai giovani artisti di poter esporre e mettere in bella vista il loro materiale e anche il loro profilo artistico. La musica di Nia Andrews è una miscela esplosiva e effervescente a cavallo fra il jazz, l'R&B e le nuove sonorità, quindi direi di aprire subito con una bellissima voce femminile il soundcheck di oggi, annunciando poi in seguito quelli che saranno gli appuntamenti live, i concerti che potremmo seguire durante il corso della prossima settimana in Italia e all'estero. Il brano si intitola Notes on an History, questo è il sound particolare della bravissima Nia Andrews qui al soundcheck di Radio 24, ricordandovi il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Chiama Nia Andrews, Notes on an History. L'album non lo troverete da nessuna parte, lo ricordo, però potrete scaricarvi pagando $4 il materiale di quest'artista visitando il portale Bandcamp. Nia Andrews, e tra l'altro la cosa bella, e lo dico anche al nostro amico Riccardo Bomarzi, che ringrazio ancora una volta per il contributo che oggi ci dà per la regia del nostro soundcheck, puoi anche offrire di più. Questa sarà il nuovo modo di poter contribuire nei confronti degli artisti per sostenere il loro lavoro. E sì, lei ci chiede $4, ma sinceramente io gliene ho dati 5. Mi sembra una cosa carina, no? Ho fatto un piccolo regalino. Allora, vediamo subito i concerti che possiamo seguire in Italia. La prossima settimana c'è un appuntamento molto interessante per gli appassionati di jazz a Roma, nel bellissimo club Alexander Platz, che tra l'altro sembrava dovesse chiudere e non riaprire il suo portone, invece è di nuovo in attività, e quindi mercoledì 1 ottobre, da non perdere, il concerto di uno dei più grandi batteristi del jazz contemporaneo, Brian Blade, che incontra il contrabbassista Scott Coley e il sassofonista Benjamin Koppel. Poi ci sarà Sarah Jane Morris dal 2 al 4 di ottobre al Blue Note di Milano, e poi due brasiliani eccellenti, Irio De Paola venerdì 3 al Cotton Club di Roma e Marzio Rangel, strepitoso fenomeno della chitarra brasiliana, scrive musica e suona la chitarra benissimo, sempre all'Alexanderplatz di Roma. Invece, per chi ha il palato molto fine, una grande artista, Ute Lemper, venerdì 3 al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. E poi c'è il festival, il Robot Festival a Bologna, dall'1 al 5 ottobre, con musica di vario tipo e vari generi. Allora, torniamo alla musica. Un'altra voce sulla quale noi abbiamo puntato il nostro dito, e quindi siamo molto attenti al lavoro che fa questa vocalist chitarrista con la sua band, si chiama Becca Stevens Band, vive e lavora a New York e speriamo di vederla prestissimo in Italia. Il brano, una sua composizione, è intitolata Weightless, sempre soltanto al soundcheck di Radio 24. There's nothing like witnessing the moment that a life lets loose and falls to the ground. We got a winds, tip them easy like a wish upon weightless dandelion seeds. Each life beaming at its brightest now falling. The road rises up to greet and is painted for the day sacred to witness a life let loose. Soundcheck. Il suono della musica. E al soundcheck di Radio 24 torna la voce del meraviglioso Beck Hansen con Morning, il brano tratto dall'ultima pubblicazione per lui, brano e album pubblicati proprio qualche mese fa, album intitolato Morning Face. Particolare il sound di Beck, che lì negli Stati Uniti spopola, non ancora apprezzatissimo da noi, perlomeno dal grande pubblico, ma speriamo anche di poterlo vedere dal vivo. Ci sono tanti concerti in giro per il mondo e adesso vorrei annunciare qualcosa su New York City, perché c'è un grande movimento sulla bellissima Grande Mela da parte degli appassionati di musica italiani e soprattutto di molti musicisti che continuano a frequentarla, perché è a New York che un musicista si fa le ossa. Allora, partiamo dal gospel, che troverete proprio questa sera, per chi si trova e che per chi ci sta ascoltando via streaming lì a New York. C'è l'Harlem Gospel Choir, esattamente nel bellissimo BB King Blues Club and Grill, quindi anche la fortuna di poter mangiare un hot dog o un hamburger di quelli originali con tanto di bacon grigliato. C'è Robert Plant il 28 all'Howard Gilman Opera House e poi la splendida Afro Latin Jazz Orchestra il 28 al Birdland, celebre club di jazz lì a New York, la band guidata dal meraviglioso Arturo O'Farrell. Poi è una band che coniuga il sound latino con l'hip hop e le nuove sonorità, e Arturo Farrell è attivissimo in questo momento lì a New York, così come attivo anche è una star giovane dell'R&B contemporaneo, Aloe Black al Santos Party House sempre a New York. C'è Brian Ferry mercoledì 1 al Beacon Theater, Patti Smith il 1 di ottobre al Rubin Museum of Art, il quintetto di Terence Blanchard con la sua tromba al Jazz Standard il 1, il 2 e il 3 di ottobre, la voce di Kurt Elling giovedì 2 e poi anche il 3 al Birdland, così come torna la super band Fusion Spyro Gyra venerdì 3 allo Smooth Cruise lì a New York City. Torniamo alla musica, qui al soundcheck di Radio 24, Raoul Midon con la sua voce infinita e anche un tocco chitarristico niente male per questo artista non vedente dalla nascita. Album nuovissimo, si intitola Don't Hesitate, con la partecipazione in alcune tracce di Liz Wright ma anche della divina Diane Reeves. Il brano, una sua composizione, si intitola If You Want Me To, qui al soundcheck di Radio 24. So if you want me to, I can show you the time of your life. I will be there for you, just as long as you say that you want to. And if you want me to, I will listen to all of your dreams, and I'll be there with you. And all you have to say is you want to. And if you want me to, I can show you the time of your life. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Da un po' di tempo la voce che proviene dal gospel, formazione gospel e soul per Trina Broussard, da un album di qualche anno fa intitolato Same Girl, qui al Soundcheck di Radio 24, in questa giornata nella quale vogliamo annunciarvi anche i concerti presenti in Italia e in giro per il mondo nelle città della musica durante la prossima settimana. Per esempio ci spostiamo a Los Angeles, dove c'è il trio di Joshua Redman domani al Catalina Bar and Grill lì a Hollywood, un posto molto elegante. Lo dico questo perché di solito gli appassionati di musica e quelli di jazz non hanno tanti soldini da spendere, ma per entrare al Catalina Bar and Grill bisogna spendere un bel po' di dollari, soprattutto se si vuole prenotare un posto a cena, e si mangia anche discretamente, certo non come la cucina italiana, ma un bel po' di porcherie all'americana rese un po' alla francese e all'italiana. Questo al Catalina Bar and Grill per seguire Joshua Redman in trio. Ci sono anche i King Crimson presenti a Los Angeles martedì 30 all'Orpheum Theater, così come il veterano Tony Bennett mercoledì 1 ottobre al Granada Theater. E tra l'altro Tony Bennett in questo momento è anche in promozione discografica, perché abbiamo presentato l'ultimo album Cheek to Cheek con la partecipazione della star del pop Lady Gaga. Non so se Lady Gaga farà una capatina e una sorpresa ai presenti, speriamo di sì, perché è interessante vedere una star del pop come Lady Gaga cimentarsi con un veterano del jazz come Tony Bennett. Il tutto a Los Angeles, dove approda il 3 di ottobre anche il sound afro pop di Angélique Kidjot all'Art Performing Center. Continuiamo con la musica, dalla voce di Trina Broussard a quella della veterana del jazz Didi Bridgewater, che produce l'album per il trombettista Theo Crocker. Il brano, che vede anche la sua partecipazione, si intitola Save Your Love for Me, qui al Soundcheck. Save your love, save your love, save your love, save your love. Soundcheck, il suono della musica. E con i concerti ci spostiamo nella bellissima Parigi, dove anche noi andremo per un paio di concerti, ma questo il 3 e il 4 di novembre andremo con il quartetto a fare una scampagnata parigina per un paio di concerti jazz in club bellissimi, ma ne parleremo. Vediamo cosa succede a Parigi nei prossimi giorni. Allora, da non perdere, vorrei segnalarvi la presenza all'Olympia, il tempio della musica e dello spettacolo di Parigi, della veterana Joan Betts, che suona il 30 settembre e il 1 di ottobre, poi prende una giornata di day off, probabilmente per riposare la voce, anche perché non è più giovanissima, e ritorna sempre all'Olympia il 3 e il 4 di ottobre. È felice anche di annunciare la presenza a Parigi dei nostri ragazzacci, insieme in tournée da un po' di tempo, Daniele Silvestri, Max Gazzè e Niccolò Fabi. Li troverete a Parigi il 30 di settembre, quindi praticamente ci siamo. Ecco. Auguri allora, in bocca al lupo ragazzi, e sarà presente nello stesso giorno anche Rita Marco Tulli alle Duke de Lombards. Magari si possono vedere dopo i concerti per fare una jam session da qualche parte. E Mahir Andraji, segnaliamo anche il concerto di questa artista che abbiamo presentato qui al Soundcheck nella passata stagione, che sarà in concerto il 4 di ottobre a Le Grange di Mier. Torniamo alla musica, dopo la tromba del giovane Theo Crocker prodotto da Didi Bridgewater, alla tromba, passiamo alla tromba caldissima di Chris Botti, molto apprezzato anche da Sting, che lo porta in tournée da un po' di tempo, ma anche apprezzato dalle ragazze perché ha un aspetto abbastanza affascinante e malinconico. Qui Chris Botti, con il suono caldo del suo strumento, ci propone una sua versione di The Look of Love, il successo di Burt Bacharach, affidando la melodia alla voce educatissima di Chantal Kreviazuk, qui al soundcheck di Radio 24. Da Parigi ci spostiamo a Londra per i concerti. Eccola qui domenica, proprio questa sera, da non perdere, al Jazz Café, la voce di Algebra Blessed, che noi abbiamo presentato la settimana scorsa qui al Soundcheck, voce infinita che viene dal gospel ma con un sacco di bellissime sfumature per il suo repertorio fatto di jazz contemporaneo e R&B. È una star dell'R&B di oggi. Lauryn Hill sarà proprio in concerto anche lei questa sera e domani al Brooklyn Bowl di Londra, così come Kylie Minogue, star del pop, da questa sera, anzi lunedì 29, il 30 e poi il primo di ottobre all'Arena di Londra, alla O2 di Londra. E ancora ci saranno Fabi, Silvestri e Gazzè il 2 di ottobre al Dingwalls lì a Londra. In bocca al lupo, bene, stanno facendo un bel percorso i nostri amici in giro per l'Europa. Chiudiamo questa prima parte del soundcheck. Vi ricordo che ci ritroviamo sempre qui su Radio 24 a partire dalle 19:15 per il versante più jazz del nostro programma, e vi lascio, visto che abbiamo introdotto il suono della tromba con Theo Crocker e Chris Botti, chiudiamo con un veterano, ovvero Roy Hargrove, con il progetto degli RH Factor. Il brano splendido si intitola Universe. Buon pomeriggio a tutti da Gio Telesforo, ci sentiamo più tardi, sempre soltanto su Radio 24 per il soundcheck. The universe is moving right on time with us, so move on. The universe is moving right in line with us, so move on. The universe is moving right on time with us, so move on. The universe is moving. Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic one, check check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gege Telesforo. Pronti per dare il via al soundcheck, seconda parte di questa domenica. Buonasera a tutti voi da Gege Telesforo, ancora buonasera al nostro Riccardo Bomarzi, ingegnere del suono, responsabile oggi della parte tecnica del nostro soundcheck. Allora, seconda parte come sempre dedicata al jazz e a nuove pubblicazioni, ovvero ristampe importanti, versioni rimasterizzate di dischi bellissimi che hanno fatto la storia del jazz, come il primo album di Nina Simone, un artista che ho molto amato e molto amata anche dalle nuove generazioni, da quando Chanel ha utilizzato la sua versione di My Baby Just Cares For Me, brano proprio inserito in questa pubblicazione degli anni 50 di Nina Simone, che l'ha riportata al successo. E quindi la nostra Nina Simone, che è scomparsa nel 2003, dai primi anni 80 fino agli ultimi giorni di vita, ha potuto riconquistare trovare un certo tipo di pubblico, soprattutto fra le nuove generazioni. Nata nel 1933, Nina Simone ha vissuto anche il periodo difficilissimo del razzismo lì nel sud degli Stati Uniti, dove è nata e cresciuta con una famiglia abbastanza numerosa. Si è formata musicalmente frequentando la chiesa, è lì che ha imparato a suonare il pianoforte, è lì che ha iniziato a cantare il gospel. Infatti poi in carriera ha cantato e suonato di tutto, dal jazz al gospel, dall'R&B alla soul music. Nina Simone torna quindi nei negozi di dischi, per chi ancora ha questa sana abitudine di acquistare il CD, ma senz'altro si può anche scaricare attraverso iTunes questa pubblicazione intitolata Nina Simone and His Friends, con la partecipazione di vari artisti, fra i quali anche la sua collega Carmen McCree. Allora, invece di ascoltare My Baby Just Cares For Me, che più volte abbiamo programmato qui al Soundcheck di Radio 24, vi proponiamo una composizione scritta dagli stessi autori, ovvero Kane Donaldson. Il brano si intitola Love Me or Leave Me e lei è Nina Simone al Soundcheck. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. And there's no love for nobody else. Il talento, lo swing, la passione nella voce e anche nel tocco pianistico di Nina Simone, che torna nei negozi di dischi con questo Nina Simone and Her Friends. E la signora Nina Simone, che aveva il suo bel carattere, infatti un po' di tempo fa ho visto proprio su Sky un bellissimo concerto di Nina Simone negli anni 70 al Jazz Festival di Montreux, che se la prende con il pubblico perché alcuni presenti rumoreggiavano e facevano battute sul suo atteggiamento. Probabilmente durante quel concerto Nina Simone si è presentata un po' alticcia, e tra l'altro la performance la realizzò soltanto con il batterista, anche perché quando suonava Nina Simone utilizzava delle strutture musicali abbastanza aperte, e quindi con il batterista le cose si semplificavano. Avendo avuto un contrabbassista a disposizione, forse avrebbe dovuto fare qualche prova in più. Comunque Nina Simone intorno alla fine degli anni 70 lascia gli Stati Uniti accusando sia l'FBI che la CIA di scarso interesse nel risolvere il problema del razzismo, e quindi negli anni successivi gira il mondo vivendo nelle isole Barbados, in Liberia, in Egitto, in Turchia, Olanda, Svizzera, e quindi gira in lungo e in largo l'Europa. Nina Simone la ascoltiamo adesso in veste solo di pianista in un bellissimo blues, una sua composizione intitolata Central Park Blues, qui al Soundcheck di Radio 24. Il suono della musica. E dopo l'informazione di Radio 24 torna il Soundcheck, la prova del suono, in questa seconda parte dedicata al jazz e oggi alle nuove ristampe. Sì, pubblicato in digitale anche un album intitolato Roots, con la partecipazione del sassofonista Ben Webster e altri eccellenti veterani del jazz, con in evidenza la bella faccia qui in copertina dietro a un bel microfono dannata del vocalist, cantante di blues Jimmy Witherspoon, non molto conosciuto fra gli appassionati di jazz, perché Jimmy Witherspoon è stato uno dei cantanti di riferimento del blues, proprio con la tecnica shouting, ovvero il blues urlato. Ma Jimmy Witherspoon lo possiamo considerare proprio come vocalist una sorta di ponte fra la passione per il blues e lo swing tipico del jazz. Allora, Jimmy Witherspoon con questo nuovo CD rimasterizzato da una produzione del 1960 incontra in studio di registrazione il sassofonista Ben Webster in questa composizione intitolata Your Red Wagon, e qui si parla di un vagone rosso, e per Jim Witherspoon un vagone carico di blues. If you're gonna play horses and blow your dough, don't you run to me if they don't show. That's your red wagon. There's your red wagon. There's your red wagon. Just keep on wagging along. La voce, la passione blues di Jimmy Witherspoon al soundcheck di Radio 24, il sax tenore, quello di Ben Webster in Your Red Wagon. Altra pubblicazione, altro mastering recente in digitale, con l'arte, il tocco moderno, così come viene presentato nella copertina di questo album, del maestro Marty Paich, eccellente arrangiatore, direttore di orchestra, direttore di meravigliose big band insieme a Oliver Nelson e un giovanissimo Quincy Jones. Marty Paich è stato uno dei maestri più richiesti in studio di registrazione per supportare il lavoro dei grandi cantanti, da Etta James fino a Shirley Bassey, ma anche Aretha Franklin e così via. Marty Paich, tocco jazz, grande passione per lo swing, ma anche un musicista moderno, contemporaneo potremmo definirlo, che qui scopriamo in questo album, come dicevo, rimasterizzato, intitolato I Get a Boot Out of You. E qui il maestro Marty Paich convoca in studio di registrazione eccellenti musicisti, fra i quali ne cito soltanto alcuni: Art Pepper al sax contralto, ma anche Victor Feldman al vibrafono, Russ Freeman al pianoforte, Mel Lewis, giovanissimo, alla batteria. Questa una registrazione del 1959 per Marty Paich, che dà vita con un suo arrangiamento a una nuova versione di Moanin', il famoso brano scritto dal pianista Bobby Timmons per Art Blakey e Jazz Messengers. Piacevolissima questa versione di Marty Paich, uno special strumentale scritto da Marty Paich per Moanin' di Bobby Timmons, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Appassionati di jazz e di musica avranno riconosciuto uno degli standard più famosi, ovvero Autumn Leaves, le foglie morte, brano scritto dal compositore Cosma, qui nella versione rivisitata dall'arrangiamento del sassofonista Benny Golson, con in evidenza il solista Art Farmer, filicornista, sì, uno specialista del filicorno, il suono caldo di questo strumento, del quale proprio Art Farmer era uno dei principali esponenti. Art Farmer and the Orchestra, nuova pubblicazione in digitale, scoprirete il talento di uno dei più grandi musicisti della storia del jazz, un musicista che qui abbiamo scoperto con il suo tentet, ovvero 10 elementi. Pensate che nella sezione delle trombe c'erano Lee Morgan e Ernie Royal, e addirittura Jimmy Cleveland, Curtis Fuller e Wayne André al trombone, e poi tutti gli altri, una sezione ritmica impeccabile con Bobby Timmons al pianoforte, Percy Heath al contrabbasso e i meravigliosi Philly Joe Jones e anche Elvin Jones in alcune tracce alla batteria per gli arrangiamenti di Benny Golson. Autumn Leaves, una composizione che tutti i musicisti di jazz hanno suonato almeno una volta nella vita, bellissima non solo la melodia, ma il brano è diventato importante proprio per le progressioni armoniche che hanno segnato la storia del jazz. E da Autumn Leaves, per chiudere questa puntata del nostro soundcheck, dal filicorno di Art Farmer, passiamo passiamo alla tromba di Chet Baker, che ha vissuto vari periodi, non solo quello californiano con Jerry Mulligan, ma Chet Baker poi ha viaggiato in lungo e in largo per l'Europa, ha vissuto in Italia a lungo e ha vissuto un bel momento di musica anche in Francia. Anche Chet Baker lo ritroviamo con un nuovo album che ce lo propone proprio dal periodo francese, il periodo parigino. L'album si intitola I Get Chet e quindi chiudiamo il soundcheck di oggi con questa versione strumentale di un brano portato al successo dalla voce di Nat King Cole. Questa invece è la versione di Chet Baker di Once in a While, brano scritto da Edwards e Green, con il quale chiudiamo la nostra prova del suono. Quindi l'appuntamento è al prossimo weekend, sabato prossimo ci risentiamo intorno alle 19:15, poi il doppio appuntamento della domenica. Non mi resta che salutare tutti voi, ringraziarvi per l'attenzione, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Grazie a Riccardo Bomarzi per la collaborazione alla parte tecnica, a tutti voi una buona settimana e soprattutto buona musica da Gigi Telesforo.